Carissimi amici, nel Talmud, nel trattato di Ta'anit, si racconta una storia riguardo uno dei famosi maestri dell'epoca della Mishnah, Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa era, dal punto di vista materiale, una persona estremamente indigente e povera. La vigilia dello Shabbat arrivava e lui non aveva neanche il denaro sufficiente per acquistare della farina per preparare il pane e la challah per lo Shabbat. La sua moglie, per la vergogna, rispetto a tutte le altre vicine che si occupavano dal giovedì e dal venerdì mattina a prepararsi per lo Shabbat, metteva dentro al forno delle foglie secche, delle cose così, perché fuori si veda tanto fumo, in modo che si pensa che ci sia qualcosa dentro la cucina anche a casa sua e che si vergogni un po' di meno. C'era però una vicina che si è fatta due conti, ha fatto uno più uno, e ha detto: ma questa signora, la moglie di Rabbi Hanina ben Dosa, ci sta prendendo in giro, perché io so bene che loro non hanno modo, non hanno beni purtroppo. E com'è che il suo forno è sempre attivo? Ora vado io a controllare, la classica vicina che si intromette nella vita delle altre vicine. Allora bussa alla porta e la signora Bendosa era talmente in imbarazzo, si vergognava dal fatto che aprendo la porta si vedrebbe che nel forno c'è fumo e basta. Praticamente scappò ad un'altra stanza, la stanza adiacente. La vicina non si fece fare attendere, aprì la porta, entrò dentro e vide, accadde un miracolo, lei non lo sapeva, ma dentro il forno era pieno di pani, di chalot, e sul piano di lavoro, sul tavolo, nella cucina, c'era un contenitore, una ciotola piena di impasto ancora da infornare. E allora, mentre vede questo, urla e dice: signora, signora Bendosa, porta la pala subito, perché queste calotte tra un po' si bruciano. E lei ha detto: sì, sono andata nell'altra stanza proprio per prendere la pala. Quando tornò a casa Rabbi Hanina, la moglie gli disse: basta, non posso più vivere in questa maniera. Gli ha detto: cosa proponi? Cosa credi che posso fare? Allora gli ha detto: guarda, tu preghi per tutti, tutti vengono da te perché tu preghi per loro e le tue tefillot sono sempre esaudite. Rabbi Hanina era famoso per questo. Prega che ti diano qualcosa dal cielo, per te e per la tua famiglia. Rabbi Hanina disse: va bene, andò a pregare. E dall'alto, dal cielo, uscì fuori come una cosa che sembrava una mano, che gli porgeva un gambo di una tavola, la gamba di un tavolo, che era fatto d'oro. Incredibile, adesso siamo ricchi. Ok, porta a casa questa gamba del tavolo d'oro e la notte la signora Bendosa si sogna, si fa un sogno dove vede in un'altra dimensione, probabilmente l'Olam Abba, il mondo a venire, vede come tutti i tzadikim, tutti i giusti, tutti i grandi maestri sono seduti intorno, ognuno a un tavolo con tre gambe. E lei e il suo marito stanno vicino ad un tavolo con solamente due gambe. Allora ha capito che quella cosa mancava perché gli era stato dato a Rabbi Hanina in questo mondo. E ha pensato, ha detto: non conviene perdere qualcosa del mondo a venire per ottenere qualcosa in questo mondo temporaneo e futile. E allora disse al marito: per favore, fai un'altra preghiera che riprendano ciò che avevano dato. E il Talmud narra la storia dicendo che effettivamente ci fu un secondo miracolo, un terzo miracolo se seguiamo tutta la storia, e ripresero dal cielo quella gamba. I maestri commentano questa storia dicendo che il secondo miracolo è più grande del primo. Perché? Perché esiste una regola, un assioma nell'ebraismo che dal cielo si dà ma non si prende. Quindi il fatto che si è ripreso qualcosa che era già stato dato, i maestri lo considerano un miracolo maggiore rispetto al primo miracolo. Questa storia ci aiuta a capire qualcosa di difficile che molto spesso mi chiedono riguardo le korbanot, ovvero i sacrifici, le offerte animali che si facevano nel Beit HaMikdash. Tra l'altro si parla di questo nella parashah di questa settimana. Ulteriormente, questa settimana appena passata, abbiamo segnato il giorno di digiuno del 17 di Tammuz, giorno in cui sono accadute varie tragedie. Una di queste è quella, proprio il fatto che in questa data è stato interrotto il culto, il servizio del Beit HaMikdash con le Korbanot del Tamid, quello quotidiano, di cui si parla proprio anche nella parashah di questa settimana. E i maestri dicono che le nostre tefillot, le nostre preghiere prendono il posto delle korbanot. Cosa c'entrano le tefillot con le korbanot? Se il sacrificio è un sacrificio animale, che cosa si faceva? Si prendeva una bestia kasher secondo le regole richieste per quel sacrificio specifico, si faceva la shechita, la stessa shechita che noi facciamo oggi per rendere kasher la carne che mangiamo, e a secondo del tipo, o veniva offerto sull'altare, o solamente una parte, un'altra parte è consumata dalle persone, eccetera, eccetera. Ma cosa c'entra questo con la tefillah? Che noi facciamo la tefillah, se guardiamo il testo, il contenuto della parte più importante che è l'Amidah, è la richiesta delle nostre esigenze. Il momento in cui noi veniamo davanti a Kadosh Baruch Hu, gli diciamo: tu sei il capo, tu sei il padrone di tutto. E ti chiediamo una buona vita, ti chiediamo la salute, ti chiediamo la parnassà, eccetera, eccetera. Sono le nostre esigenze, la richiesta delle nostre esigenze. Cosa c'entra con le korbanot? Effettivamente, se non capiamo cosa c'entra con le korbanot, significa che ci manca qualcosa nella comprensione sia di cosa sono le korbanot che di cosa sono le tefillot. E una parte della risposta, un po' di questo segreto, è nascosto nella storia che ho citato prima. In generale, come dicevamo, dal cielo si dà ma non si prende. Cosa significa dal cielo si dà? Uno potrebbe pensare, ma a me non hanno dato tanto. Allora non hai capito il concetto. Dal cielo si dà significa dal momento che HaKadosh Baruch Hu crea l'universo e crea il mondo, Bereshit, significa che ha dato. Cioè ha fatto sì che esista qualcosa che non è scontato che debba esistere. Trasforma il nulla in qualcosa. Quindi a noi HaKadosh Baruch Hu ci ha solo dato. Non ha preso da noi, ci ha dato perché tutta la nostra esistenza e tutta l'esistenza di ciò, della cornice nella quale ci troviamo, tutto esiste per sua volontà. Non come qualcosa che è scontato che ci sia, ripeto. Ok? Quindi questo significa Kadosh Baruch Hu dà. E normalmente non prende. Cioè non trasforma il qualcosa in nulla. Funziona in una direzione normalmente, no? Nella nostra esperienza. Lui crea e noi ci siamo. L'idea del Korban, l'idea del sacrificio, e in qualche maniera di ripercorrere questa strada in senso opposto. Trasformare il qualcosa in nulla. Prendiamo un nostro bene, facciamo un acquisto, lo rendiamo sacro, seguiamo tutta la prassi, come dicevo, del Corban, e il Corban è consumato, almeno in parte, con un fuoco che rappresenta un fuoco che scende dal cielo. E cioè, se la creazione significa trasformare il nulla in qualche cosa di tangibile, il Corban rappresenta il trasformare il qualcosa di tangibile in nulla, cioè farlo tornare alla sua fonte, ridare, tra virgolette, ad HaKadosh Baruch Hu quello che lui ci ha dato. E questo è qualcosa di molto particolare che non esiste in teoria nelle altre mitzvot, almeno in maniera così concreta. Ed ecco che qui la tefilà assume la similitudine con il korban. La tefilà non è solamente la richiesta delle nostre esigenze, come possiamo forse capire dalla liturgia stessa. La tefilà è un'opportunità per uscire fuori dalla propria materialità, dal materialismo in generale, e avvicinarsi ed attaccarsi ad HaKadosh Baruch Hu. Questo avviene nel corso della tefilà in maniera graduale, seguendo i vari passaggi e le varie fasi della tefilà, fino al momento della Amidà, che è un momento di totale, dovrebbe essere un momento, si cerca di far sì che sia un momento di totale annullamento del proprio io, del proprio ego. Ecco perché siamo in piedi e siamo con i piedi uniti, non ci muoviamo, proprio per rappresentare questo concetto che siamo annullati davanti alla presenza di HaKadosh Baruch Hu. Trasformare il qualcosa in un nulla, tra virgolette. Esattamente come il Korban come concetto. E allora, questa storia ci ha fatto capire un po' meglio il legame e il significato di entrambe queste mitzvot, che appunto sono legate. I maestri dicono che quando non ci sono le korbanot fisicamente, sono le tefilot che riempiono quel vuoto. Che potessimo avere il merito di vedere in questi giorni, gli stessi giorni in cui segniamo la distruzione del Beit HaMikdash, che siano trasformati anche questi giorni, da giorni di lutto, in giorni di gioia. Shabbat Shalom!